30 minuti in cronaca di Gigi Donelli. È un applauso di incoraggiamento quello che saluta l'annuncio, la conferma, il volo di STS 134 è dunque rimandato di almeno 48 ore. Buonasera a tutti da Gigi Donelli, questa sera il nostro appuntamento con 30 minuti in cronaca viene registrato al Kennedy Space Center di Cape Canaveral in Florida. Il lancio è dunque rimandato, ma noi questa sera parliamo di spazio, del presente e direi soprattutto del futuro. Parliamo di questo, ma lo facciamo in compagnia di chi invece nell'esplorazione spaziale rappresenta il futuro. Luca Parmitano, astronauta italiano, possiamo dirlo, classe 1976. È importante. Prima cosa, Luca Parmitano sappiamo non volerà mai sullo shuttle, in compenso ha già un appuntamento di volo per il 2013, che non è poco. Assolutamente no, io sono un privilegiato, per cui sebbene guardo con tristezza la fine del programma shuttle, sono comunque contentissimo di avere la possibilità ben presto di volare una missione sulla Stazione Spaziale Internazionale, sulla navetta Soyuz. Ecco, Luca è stato selezionato di fatto pochi mesi fa assieme a Samantha Cristoforetti, sono i due esponenti italiani della nuova leva del Corpo Astronautico Europeo, quindi Agenzia Spaziale Europea, ESA, come sapete abbiamo parlato molto in questi giorni, lo faremo anche stasera, di Agenzia Spaziale Italiana, quindi i due esponenti italiani del Corpo Astronauti. Un'avventura già prevista, formidabile, quella di una missione di lunga permanenza nello spazio. Esatto, la mia missione che inizierà nel maggio 2013 mi vedrà impegnato sulla stazione per circa 6 mesi. Una missione paragonabile a quella di Paolo Nespoli, che in questo momento si trova sulla stazione anche lui per una missione di lunga durata. La mia dovrebbe essere un po' più lunga, credo. Spero di avere l'opportunità di fare degli esperimenti e delle esperienze interessanti come quelle di Paolo fino adesso. Non ne dubitiamo. Cerchiamo di conoscere meglio l'astronauta Parmitano. Innanzitutto è siciliano. Sono siciliano di Catania. E questo è un primo fatto. Innanzitutto, e ribadisco, e questo è importante, un'esperienza da studente che subito l'ha portato a avere un'esperienza all'estero. Sì, questo è un fatto che condivido insieme alla mia collega Samantha Cristoforetti. Quasi ormai 15 anni fa ho fatto un programma di studio, un programma di scambio che mi ha portato per un anno qui negli Stati Uniti al quarto anno di scuola superiore. Poi rientrato in Italia ho proseguito gli studi normalmente in Italia, ma quello è stato credo un anno per me fondamentale dal punto di vista sia umano che di educazione. Quindi scientifico, inteso come liceo, e poi? Poi un anno lì qui in America, visto che siamo qui in Florida, un anno in America, in California, rientrato in Italia e poi Accademia Aeronautica. Accademia Aeronautica, questa è un'altra delle chiavi, se vogliamo, di questo momento della storia spaziale italiana. Gli astronauti italiani, Vittori in orbita, Nespoli anche, e voi siete tutti membri delle forze armate. Sì, qui voglio riprendere una frase che ha detto oggi il presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana. Non bisogna sorprendersi che molti esponenti del Corpo Astronautico Europeo vengano dalle forze armate. Sembra un caso quasi del tutto italiano, ma in realtà qui negli Stati Uniti moltissimi astronauti vengono dalle forze armate, dalle tre forze armate americane, quindi sia esercito che marina che aeronautica. Quasi tutti quelli che vengono all'aeronautica sono piloti sperimentatori, quindi il mio stesso background è quello di Roberto Vittori. Non è un caso, semplicemente perché noi siamo già in un certo senso selezionati in partenza, abbiamo accumulato molte esperienze operative che sono simili a quelle che poi vengono messe in gioco durante una missione spaziale. Quindi non dobbiamo sorprenderci di questo fatto. Allo stesso tempo è forse anche vero che chi come me ha un po' il sogno o l'obiettivo di diventare un giorno astronauta intraprende una carriera che possa dare soddisfazione anche nel caso in cui questo sogno non sia realizzabile. Quindi Luca Parmitano è entrato nell'aeronautica per diventare astronauta? questo sogno è sempre stato con me. Io so che alcuni miei colleghi ricordano insieme a me che sin dall'inizio della mia carriera aeronautica io parlavo di questo sogno. Chiaramente un sogno non è necessariamente realizzabile, ma credo che sia importante mirare in alto per poter comunque raggiungere dei risultati che diano soddisfazione. Se non fossi diventato astronauta sarei comunque un pilota sperimentatore, che è un lavoro che comunque dà moltissime soddisfazioni. I miei colleghi che sono anche adesso sono ancora piloti sperimentatori fanno delle esperienze bellissime, lavorative, umane, e sono dei professionisti eccezionali. Non ne dubito, mirare in alto mi sembra quanto mai adatto visto il discorso che stiamo facendo. Parliamo un momento di questa missione. Lo shuttle dunque con STS 134 porta un formidabile esperimento in orbita. Un esperimento che appunto è l'acronimo AMS, ricerca nel campo della fisica più evoluta, elementi per comprendere addirittura materia oscura e diciamo le parti appunto più misteriose di quello che ci circonda. Nello stesso tempo svolge anche quello che è il compito di routine di mantenimento della Stazione Spaziale Internazionale. Con questo volo, perché l'ultimo volo dello shuttle non sarà coinvolto in questo senso, si completa la costruzione. Quando voi arriverete con il suo appuntamento 2013 troverete una stazione completa. Ecco, che cosa vi aspettate di trovare di diverso da oggi? È un aspetto importantissimo che si riflette già nel nostro addestramento, è che la stazione è lì in orbita già dal 98 e continua a invecchiare. L'ambiente spaziale è un ambiente estremo, si passa da temperature al sole di 180 gradi in positivo a meno 150 gradi nelle fasi di ombra, per cui tutto quello che è strutturale sulla stazione invecchia rapidamente. Fino adesso gli astronauti delle missioni shuttle erano quelli che performavano la maggior parte delle missioni di mantenimento, ma con il ritiro dello shuttle saremo noi, membri dell'equipaggio permanente della stazione, a svolgere queste funzioni. Quindi quello che noi immaginiamo sarà un allenamento e una necessità di intervento manutentivo intenso da parte dell'equipaggio permanente, per cui ci addestriamo già fin da adesso a questo con attività extraveicolari e la possibilità di dover intervenire direttamente sulla manutenzione della stazione. Ecco, diciamola una cosa, l'attività extraveicolare è un sogno nel sogno per molti astronauti, lo sento dire da Nespoli, da Vittori, non me ne vorranno, ma se c'è qualcuno che ora ha la possibilità di farlo è Luca Parmitano, perché andare, ricordiamo, leva appunto l'attività extraveicolare vuol dire uscire dalla stazione spaziale all'interno della tuta ed essere, come dire, soli di fronte allo spazio. Beh, in molti sensi direi che nell'immaginario comune l'astronauta è quella persona che con la tuta bianca da attività extraveicolare esce fuori dalla stazione per attività di costruzione e di mantenimento. È sicuramente un mio sogno, è sicuramente un mio obiettivo quello di portare la bandiera italiana sul braccio sinistro della tuta spaziale e di portarla all'esterno della stazione. Ed è sicuramente un sogno per molti di noi che come me sono cresciuti in un periodo in cui lo shuttle faceva le prime missioni e vedevamo questi astronauti con la tuta spaziale uscire fuori dallo shuttle per effettuare le prime missioni di mantenimento e di costruzione. Quindi certamente un sogno nel sogno. Paolo Nespoli e Roberto Vittori che si incontrano, tra l'altro realizzando un altro dei record di questa settimana dei record, quindi due italiani nello spazio che si incontrano, due astronauti italiani, ci tengo a dirlo, dell'Agenzia Spaziale Europea, perché è importante credo questo fattore, ma insomma si incontrano. Paolo Nespoli addirittura ha festeggiato il suo compleanno in orbita e sono 54, ci sono praticamente 20 anni di differenza. Ecco, che differenza c'è tra, diciamo, la vostra prospettiva, tra questa generazione di fatto di pionieri dello spazio e voi? Dobbiamo comunque pensare che lo spazio è ancora una frontiera, quindi di fatto anche se i tecnici della NASA e delle altre agenzie spaziali riescono a far sembrare queste missioni semplici, andare nello spazio ancora oggi è estremamente complesso, estremamente difficile, quindi anche noi in realtà saremo dei pionieri, stiamo costruendo le basi per chi in futuro andrà a colonizzare lo spazio. Non siamo ancora a quel punto, il nostro contributo sarà proprio quello. È per questo che la grossa differenza tra la nuova generazione e la vecchia generazione è la permanenza nello spazio. Noi della nuova leva siamo tutti selezionati per restare nello spazio almeno 6 mesi, quindi lunga permanenza. Chi è stato selezionato prima di me invece puntava soprattutto a missioni di breve durata come quella di Roberto. Due esperienze diverse, valide, ma con complessità e caratteristiche diverse. Diciamo che la nostra aspettativa è quella di vivere e diventare abitanti dello spazio. Palmitano, lei come molti astronauti ha, come dire, imparato a parlare, a comunicare con prudenza, però io quando sento parlare un astronauta che mi dice lunga durata, penso che se fossi nei suoi panni sognerei Marte. Perché no? Io dico sempre, lo dico sempre, mi dispiace un po' ripetermi, ma lo credo veramente, che l'unico limite a quello che noi siamo capaci di fare è l'immaginazione. Quello che è immaginabile è realizzabile. Marte è un obiettivo sicuramente possibile, anche tecnologicamente possibile. Quello che serve è un impegno politico, un impegno a livello mondiale, e la volontà di realizzare qualcosa di straordinario che poi resterà per sempre nella storia, come uno sbarco su Marte. Perché no? La colonizzazione del nostro satellite, la colonizzazione del più vicino dei nostri pianeti. Quindi della Luna? Beh, sicuramente la Luna è più a portata di mano. Noi siamo andati lì per starci pochi giorni. Io direi che potrebbe essere l'occasione in futuro di andare lì non come Cristoforo Colombo, ma come quelli del Mayflower, quindi andare lì per restarci e per utilizzare questo nostro compagno di viaggio nello spazio per andare ancora più lontano. Grazie a Luca Parmitano, lo ricordo, astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea, naturalmente di nazionalità italiana. 30 minuti in cronaca. Ancora buonasera dunque dal Kennedy Space Center di Cape Canaveral in Florida. Questa seconda parte di 30 minuti in cronaca. Come avete sentito, il lancio è stato dunque rinviato. STS 134 resta in attesa lancio possibile a partire da lunedì, ma su questo ancora non c'è certezza. Insomma, l'ultima missione di Endeavour sembra in qualche modo volere resistere al pensionamento. Dopo Endeavour rimarrà solo Atlantis con la missione di giugno, e poi l'era dello shuttle sarà dunque definitivamente conclusa. Un'era importante, 30 anni di storia esplorativa, un successo straordinario negli anni 80, poi due disastrosi incidenti, ma una vicenda spaziale di primaria importanza che ha segnato gli anni 80, 90, i primi anni di questo nuovo millennio, e naturalmente la grande costruzione della Stazione Spaziale Internazionale, che di fatto lo shuttle ha reso possibile, portando nella sua formidabile stiva i grandi moduli pressurizzati che ora in orbita a oltre 400 km di altezza rappresentano la casa spaziale, la casa ai confini dell'orbita terrestre di tutta l'umanità. Infatti la stazione spaziale, lo ricordiamo, è una grande operazione, è vero, lanciata dagli Stati Uniti in collaborazione con la Russia, ma a cui partecipano molte nazioni, tra cui l'Italia ha svolto da sempre un ruolo importante. Lo sottolineo ancora una volta, molti dei moduli della parte europea della ISS, la Stazione Spaziale Internazionale, sono infatti stati costruiti in Europa, molti di loro a Torino, nei laboratori, negli stabilimenti di Thales Alenia Space. Ma come abbiamo detto, questi sono giorni in cui qui al Kennedy Space Center si guarda al futuro. Nei giorni scorsi molti incontri tra quelli che rappresentano appunto il progetto CCDAVE, cioè il volo commerciale a cui ora la NASA affida una parte del ruolo, e in particolare quello di rifornire, di assicurare il cambio degli astronauti proprio alla stazione spaziale, che recentemente è stata rinnovata, gli è stata assicurata una vita che andrà almeno al 2020, si spera anche oltre 2027-2028, e poi chissà. E allora, ripartendo da questo punto, noi abbiamo voluto sentire il massimo rappresentante dell'Organizzazione Spaziale Italiana, l'Agenzia Spaziale Italiana, che lavora e collabora con la NASA da una parte, ma anche all'interno dell'Ente Spaziale Europea, dell'Agenzia Spaziale Europea, l'ESA. Enrico Saggese, presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana. Dunque, lo shuttle segue la sua strada, il suo percorso, un'era tende a chiudersi. Ormai ne abbiamo parlato molto in questi giorni, qui al Kennedy Space Center si parla del futuro. Allora io vorrei ripartire proprio da questo punto. Dove siamo, e intendo l'Italia, ma l'Europa anche, in questo futuro che ora viene appena tratteggiato qui al Kennedy Space Center? Ma il futuro che noi abbiamo è innanzitutto un futuro di continuità. In Europa abbiamo deciso 2 mesi fa di continuare a finanziare la Stazione Spaziale Internazionale fino al 2020. Qualcuno pensa che possa durare fino al 2028, che è la data in cui la stazione compirà i suoi 30 anni. 30 anni è il periodo di qualifica di queste tecnologie. E certamente dobbiamo pensare alla prossima decade, ai prossimi 10 anni, ai 10 anni dopo la Stazione Spaziale Internazionale, e quindi pensare a che cosa fare dopo. Gli americani hanno tratteggiato a grandi linee quella che è il loro interesse, e cioè un interesse di fare una specie di astronave che possa viaggiare fino alla Luna, girare intorno alla Luna, andare agli asteroidi, andare su Marte. E non hanno pensato, non ritengono che si sia nei programmi il fatto di poter scendere su un corpo celeste, che sia la Luna o sia Marte. Forse Deimos, Phobos, che sono i due satelliti di Marte, che sono dei corpi celesti molto piccoli, 8-12 chilometri. Quindi è chiaro che dobbiamo pensare al futuro. Dobbiamo pensare al futuro in 2 grandi linee. Come costruire questa astronave, e gli americani e i russi in maniera separata stanno pensando a motori atomici di grande potenza, 1-2 megawatt. Pensiamo che la Stazione Spaziale Internazionale, con dei grandissimi celle solari, raccoglie soltanto 100 kilowatt di potenza, e quindi stiamo ragionando in termini di una potenza che è almeno 10 volte superiore. E il secondo grande problema è come proteggere l'uomo. L'uomo nella zona della Stazione Spaziale Internazionale, che si chiama la Low Earth Orbit, vive in una condizione ancora ideale rispetto allo spazio esterno, perché è all'interno del campo magnetico terrestre. All'interno del campo magnetico terrestre si ha la deviazione di tutte le particelle cosmiche, quindi non viene bersagliato da queste particelle cosmiche, è in una situazione sicura, safe, come si dice in americano. Ma quello che invece sarà l'uomo che viaggia verso la Luna e oltre non può essere in queste condizioni, quindi deve essere ulteriormente protetto. E magari proprio dalle esperienze su AMS, questo strumento che andrà in qualche modo a identificare l'antimateria, si potranno trovare qualche soluzione, cioè la costruzione di un campo magnetico portatile organizzato da superconduttori, il quale protegga come un piccolo guscio gli astronauti o l'astronave che viaggerà poi verso la Luna e verso Marte. Sono tutte tecnologie che devono essere ulteriormente sviluppate, e che una volta sviluppate, messe insieme, possono dare la soluzione di quello che farà l'uomo nella sua esplorazione. Ecco, parliamo di risorse. Qui è un momento di svolta al Kennedy Space Center, ma non solamente, perché c'è stata una forte crisi economica. Le risorse sono naturalmente un punto delicato. Andare su Marte si calcola, lei stesso l'ha citato, si parla di 500 miliardi, ma persino esperienze meno spettacolari sono estremamente costose. Vorrei parlare di Italia e di risorse. Tradizionalmente c'è una contesa, a volte leale, a volte meno chiara, tra il mondo della scienza e quello della difesa. Questo fa parte della storia dell'esplorazione, a cominciare dagli americani e ovviamente dai sovietici. Ecco, in Italia a che punto siamo? Chi porta avanti il percorso della ricerca spaziale, che poi alla fine sintetizza nell'Agenzia Spaziale Italiana? Ma il Ministero dell'Università, della Ricerca Scientifica e della Pubblica Istruzione ha identificato una strategia di lunghissimo termine per l'Agenzia Spaziale Italiana. L'Agenzia Spaziale Italiana ha prodotto un documento di visione strategica che dura 10 anni, e nel quale il Ministero ha appunto deciso di investire 7 miliardi di euro. In più il Ministero ha identificato alcuni dei progetti dell'Agenzia Spaziale e li ha messi all'interno del novero dei cosiddetti progetti bandiera, in quello che è il Programma Nazionale della Ricerca, con finanziamenti ulteriori, con la possibilità poi di aprirsi a finanziamenti privati. È chiaro che la politica, la strada intrapresa dagli americani, che è quella di finanziare la ricerca anche con risorse private, deve e può e deve essere perseguita anche altrove. Ci si sta pensando a livello dell'Agenzia Spaziale Europea, ci si pensa nell'Agenzia Spaziale Italiana. si partirà da progetti che sono commercialmente maturi come le telecomunicazioni, si passerà a progetti in evoluzione come l'osservazione della Terra e magari si finirà all'esplorazione. Chiaramente in America con le fondazioni che esistono si ha un finanziamento più disponibile verso la ricerca a lunghissimo termine di quanto in Italia. In Italia stiamo ancora, diciamo, combattendo per avere risorse per la ricerca a breve e medio periodo, con una possibilità di rientro dei capitali sul breve e medio periodo. In caso della ricerca, diciamo, di base, il periodo è molto più lungo e quindi il rientro dei capitali non è così assicurato. Ma magari queste attività che stiamo facendo con l'esplorazione umana possono stimolare le risorse di altri enti, le fondazioni bancarie, nonché magari la Cassa Depositi e Prestiti, che possono vedere nell'esplorazione tutta una serie di possibilità ulteriori che possono essere fornite al mondo pubblico e al mondo anche dell'università italiana. Bene, con questo abbiamo davvero chiuso questo appuntamento di 30 minuti in cronaca dedicato dunque all'avventura spaziale. Vi ricordo solamente che questa mattina alle 8:15 abbiamo mandato in onda una lunga intervista a Roberto Battiston, fisico che insegna a Perugia, che è responsabile per la parte italiana del grande progetto coordinato dal professor Tin, premio Nobel per la fisica, e coordinatore dunque del progetto AMS. Potete ritrovare il tutto naturalmente su radio24.it nella sezione dei reportage. Ecco, questo è davvero tutto, non mi resta che augurarvi un ottimo fine settimana, darvi appuntamento naturalmente come sempre a 30 minuti in cronaca sabato prossimo a partire dalle 19:30. Da Gigi Donelli un saluto da Cape Canaveral.